Un odore nauseabondo, oleoso, acido. Hai visto? Sono diventato un imprenditore. Al viso scavato dalla vita, ma non mutato nell'espressione. Gestisco un'impresa edile. Facciamo lavori come questo, facciamo i buchi. Portiamo la terra da un posto all'altro. Ma che cazzo fate? Questo è un cimitero. Ci mettete la merda intorno ai morti. Ma quale merda? Tranquillo. Dove stanno le bare mettiamo la mista buona. E sotto cosa ci ficcate? Scorie chimiche, rifiuti tossici. Ma te che ti frega? Tanto sono tutti morti. Ricordatelo questo. Ogni volta che si scava, si scopre un tesoro. Ficcatelo bene in testa. Vincenzo Nucera, il mio vecchio compagno di banco. A scuola tutti sapevamo che la sua famiglia era legata al clan di Franco Cocotrovato e Pepe Flachi, figli di immigrati dal sud, sia io che lui, cresciuti oltre la linea. Lineamenti è una storia di padri e di figli. Di padri e figli giornalisti, soprattutto. Una storia di quelli che le storie le raccontano, le scrivono. I fotografi della realtà. È un bel modo per chiamarli. Di solito i giornalisti sono precari e prendono 4-6 euro ad articolo. Un lavoro impossibile. Soprattutto poi quando alcuni giornalisti si ostinano a voler parlare di mafie. Una realtà nascosta che agisce nell'ombra, al buio. Una realtà così difficile da raccontare che alcuni per anni ne smentivano perfino l'esistenza. Per anni la mafia in Sicilia non è esistita. Allo stesso modo le mafie non esistono a Roma e non esistono al nord, come se ci fossero delle linee invisibili che le mafie per qualche strano motivo non dovrebbero oltrepassare. Ma che volto hanno i mafiosi oggi? Ci dobbiamo abituare a questi boss dalla faccia normale. Prima i boss aggredivano i giornalisti, i fotografi, adesso Iovine sorride accanto al poliziotto che lo ha ammanettato. Sono facce nuove, non sono più le facce sconce dei mafiosi alla Riina, alla Provenzano, Bagarella, Brusca, le facce cattive. Queste sono tutte facce normali, ma il problema è un altro: cosa ci sarà dopo di loro, dopo questi ultimi latitanti di mafie che sono ormai antropologie, sono mafie che sono destinate alla scomparsa? Che cosa ci sarà? Probabilmente ci sarà una mafia senza mafiosi, una mafia non più riconoscibile, e sarà molto più pericolosa di quella che abbiamo conosciuto negli ultimi 20 anni. La linea Gustav non c'è più. Serviva a fermare gli americani durante la Seconda Guerra Mondiale, dall'Adriatico al Tirreno, ma è anche la linea che divide il meridione dal centro e nord Italia, la linea che divide i territori controllati dalle mafie da quelli in cui le mafie non ci dovrebbero essere. La linea Gustav è stata sostituita dalla linea della Palma. Lo scriveva a Sciascia nel 1961. Forse tutta l'Italia va diventando Sicilia. A me è venuta una fantasia, leggendo sul giornale gli scandali di quel governo regionale. Gli scienziati dicono che la linea della palma, cioè il clima che è propizio alla vegetazione della palma, viene su verso nord di 500 metri, mi pare, ogni anno, la linea della palma. Io invece dico la linea del caffè ristretto, del caffè concentrato. E sale come l'ago di mercurio d'un termometro questa linea della palma, del caffè forte, degli scandali, su per l'Italia, ed è già oltre Roma. Oggi le linee sono state oltrepassate. Così scrive Giovanni Tizian nel suo libro Gotica, 'Ndrangheta, mafia e camorra oltrepassano la linea. Ma le mafie sono salite ancora più su, anche oltre l'Italia. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. Il ristorante da Bruno è un posto elegante. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. È la notte di Ferragosto del 2007. Dentro al ristorante si sta festeggiando il compleanno di un ragazzo che si chiama Tommaso Venturi. Verso le 2:30 si sentono degli spari. Tanti, tantissimi colpi. I vicini terrorizzati chiamano la polizia. Vengono uccisi 6 giovani, 70 i bossoli ritrovati a terra. È un'esecuzione dell'andrangheta riconducibile alla faida di San Luca tra due cosche rivali, quella dei Pelle Vottari contro quella dei Nirta Strangio. Una faida iniziata durante un carnevale di 16 anni prima con un lancio di uova contro la persona sbagliata. Cose che capitano quando si parla di 'ndrangheta, solo che il ristorante da Bruno non è in Calabria, è a Duisburg, in Germania. Sturmo 'ndrangheta, scrive Umberto Eco su Repubblica. Secondo un altro giornalista che si chiama Catozzella e ha scritto un libro che si chiama Alveare, ecco, secondo Catozzella la strategia è perfetta. Bisogna che tutti sappiano che i Pelle Vottari sono fuggiti da San Luca e si sono rifugiati in Germania. Giuseppe Catozzella e Giovanni Tizian sono i due giornalisti che con i loro libri hanno reso possibile questo spettacolo, ma non tanto per le storie che raccontano quanto per i motivi che li hanno spinti a raccontarle. E questo spettacolo non parla solo di loro, perché se è vero che ognuno di noi ha una quota di responsabilità, allora questo spettacolo parla di tutti noi, della nostra quota, di cui dobbiamo farci carico affinché non ci siano più eroi solitari. Calvino diceva che ognuno di noi ha una ferita nascosta per riscattare la quale combatte. E se penso a mio padre capisco forse perché non sono andato all'estero come gli altri. Papà era artigiano, di quelli con le mani grandi, ruvide, consumate. Da artigiano mio padre mi ha insegnato una cosa, mi ha insegnato che prima di cambiare un pezzo bisogna sempre cercare di aggiustarlo. Una ferita segreta. La ferita di mio padre aveva un odore, ed è l'odore denso dell'olio esausto dei motori delle macchine. L'odore del legno bruciato. Luglio del 1988. Fa caldo bovarino come in tutta la Calabria. Io abito qui, con la mia famiglia. Ho 6 anni quando una telefonata ci sveglia nel cuore della notte. Squilli indiscreti, prepotenti, testardi, di quelli che mai e poi mai vorresti sentire. Squilli che annunciano la morte di un sogno, l'inizio della tragedia, il principio della diaspora. E allora saliamo in macchina e al bivio per Platì. L'orrore lo si può già intuire, lo si respira. L'odore del legno bruciato, dei sogni ammazzati. La fabbrica è lì, avvolta nelle fiamme. Quella è la fabbrica di nonno Ciccio. Quella fabbrica è il sogno di tutta la sua vita. Nonno Ciccio. Nonno Ciccio che è un ingenuo, un puro, un inventore, uno che con i sogni ci gioca. E anche con la realtà. Nonno Ciccio è uno che non ha mai chiesto nessuna grazia ai boss. E adesso negli occhi di Giovanni Tizian un piccolo scintillio. Quelle fiamme si riflettono nei suoi occhi e accendono qualcosa dentro di lui. Anche se Giovanni ha solo 6 anni ed è troppo piccolo per capire il perché sta succedendo tutto questo. Si lamenta l'impresario che il teatro più non va, ma non sa rendere vario lo spettacolo che dà. Ah, la crisi, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Metta in scena un buon autore, faccia agire un grande attore e vedrà che la crisi passerà. Signori, abbiamo capito che la mafia in Sicilia non esiste. Come? Oh, esiste davvero? Oh, calma, calma, calma. Non ci faremo trovare impreparati. Chiamiamo gli esperti ed elaboriamo un piano. C'era una volta. Capo, questi mafiosi potremmo mandarli al confino, lontano. Oh, ottima idea, mandiamoli lontano, lontanissimo. Lontanissimo, capo. Allora, ne mandiamo un po' in Emilia Romagna, un po' in Lombardia. Capo, ci sarebbe anche Frank Coppola. Chi? Frank Coppola, capo, è quello con tre dita, il braccio destro di Lucky Luciano. Questo è uno pericoloso. Dove lo mandiamo, questo? Oh, mandiamolo lontano, in un posto tremendo, terrificante, terribile. Un posto terribile? Pomezia! Capo, ma è sicuro che basterà questo per tenere i mafiosi lontano? Non è che così sparnicciamo la mafia un po' in tutta Italia? Ma no, vedrai che la mafia farà la fine del fascismo e fra un po' di mafia non ne sentiremo più parlare. Attentati. Milano, Piazza Fontana, 1969. 16 morti. Roma, tentativo di golpe borghese, 1970, 0 morti. Brescia, Piazza della Loggia, 1974, 8 morti. Treno Italicus, 1974, 12 morti. Attentato alla stazione di Bologna, 1980, 83 morti. 1970. Capo, sento un po' di tensione. Dove? Al collo? No, capo, ho come l'impressione che sia in atto una strategia della tensione. Come fai a dirlo? Qualche sospetto? 1971. Capo, il giornale dice che c'è stato un tentativo di colpo di Stato e qualche mese fa un certo principe borghese voleva rovesciare la democrazia e instaurare la dittatura come i colonnelli in Grecia. Chi è questo principe borghese? Un greco? No, un fascista, capo. Ma il fascismo non esiste più, noi dobbiamo parlare di mafia e ci penserà la magistratura a risolvere il caso. Procura della Repubblica di Roma. In merito al presunto tentativo di colpo di Stato, questa corte archivia l'indagine per mancanza di prove. 1974. Ehi, capo, il ministro della difesa Andreotti ha consegnato un rapporto. Pare che ci sono delle registrazioni che dicono che alti ufficiali dell'esercito erano coinvolti in questo colpo di Stato. Anche alcuni dei servizi segreti. Infatti il capo dei servizi segreti si è dimesso. Sì, capo, ma dalle registrazioni che ha consegnato Andreotti. Dobbiamo parlare di mafia. E io di cosa sto parlando? Di Andreotti. Non si può parlare di... Non si... 1977. Inizia il processo. 1984. Corte d'assise d'appello. La corte assolve tutti gli imputati. Il programma golpista c'era, ma era un conciliabolo di 4 o 5 sessantenni nostalgici. 1986. Corte di Cassazione. La Cassazione conferma. È stato un golpe da operetta e poi all'ultimo momento si è fermato tutto. Facciamo finta che non sia successo niente. 1991. Capo, sono saltate fuori le registrazioni originali. Ricorda quelle che aveva consegnato Andreotti. Dobbiamo parlare di mafia. Pare che in questo colpo di Stato che c'è stato 21 anni fa c'era coinvolta anche la mafia. Solo che Andreotti ha consegnato delle registrazioni tagliate. Mancavano le parti che riguardavano la mafia. E pare che c'era coinvolta anche la loggia massonica P2. A presente, no, quella di Licio Gelli, dove stava il risultato iscritto anche Berlusconi. Dobbiamo parlare di mafia. E io di cosa sto parlando? Di Berlusconi. Non si può parlare di Berlusconi. Non gli può dire. Berlusconi? Vabbè, certo, capo, che se le prove mancano. Sto zitto. Quando basta. ...1970... Buscetta. racconta che, come altri boss pentiti, venne in Italia dall'America. C'è una riunione tra boss mafiosi. Devono decidere se accettare o meno il patto con Borghese. In cambio, i mafiosi avranno sconti sulle pene dal futuro governo golpista. Al ritorno negli Stati Uniti, però, sulla scaletta dell'aereo viene fermato da uomini dell'FBI. Non gli chiedono niente in merito alla droga o agli omicidi. Gli chiedono: allora, bruschetta, bistecca? Mi chiamo Boschetta. Allora, bicicletta, questo colpo di stato lo fate, sì o no? Golpe? Quale golpe? Andiamo, bruschetta, lo sanno tutti, il golpe con Borghese. Servizi segreti, massoni della P2, alti ufficiali dell'esercito, la CIA e la mafia. Dalle parti omesse delle registrazioni tagliate consegnate da Andreotti emerge un quadro ben diverso da quello descritto nella sentenza di assoluzione, che parla di 4 o 5 sessantenni nostalgici. Guardate che non è una cosa banale fare un murale Salocri sulla statale 106. Fare un murale Salocri non è come farlo in qualsiasi altro posto, perché a Locri tutti ricordano, e anche l'assassino di mio padre, che oggi è ancora libero, ricorda bene che era Peppe Tizian. E fare un murale Salocri significa dire: guardate che Peppe Tizian non l'ha dimenticato nessuno. La fabbrica di mio nonno è stata incendiata un anno fa. Stasera mia nonna sta cucinando salsiccia e broccoli. È buio fuori. Papà deve tornare a casa dal lavoro. Una moto ferma sul lato della strada. A bordo due uomini con il casco integrale, irriconoscibili. Quei due moto stanno aspettando proprio lui. È il 23 ottobre del 1989. La sua macchina viene affiancata, colpi di lupara dilaniano la sua panda rossa. E poi una manciata di mesi di indagine. Signora, suo genero era un funzionario integerrimo, una brava persona, limpida e senza ombre, tanto da non consentirci di rintracciare indizi utili per risolvere il caso. Con queste parole dette a mia nonna si è resa la giustizia. Papà, che non era un eroe, papà che non voleva esserlo, papà che era un uomo onesto e che lavorava in banca, e anche lui, come nonno Ciccio, non aveva voluto far favore ai clan. Via, via, via, andarsene via ovunque, purché lontano da Bovalino. Partire per l'Emilia Romagna, direzione Modena. Una fuga per la libertà. E adesso negli occhi di Giovanni lo scintillio si assopisce, come un dolore persistente, piccolo, da covare nel tempo. Quella fiamma si addormenta nella normalità di una città tranquilla come Modena. Ma l'andrangheta è più veloce di lui, e quando Giovanni arriva, l'andrangheta è già lì, nell'Emilia, terra della Resistenza. Tutto ciò oltre la linea gotica. Bubù, babà, bibì, perabarabè. Sono tre sorelle tutte belle, belle come me. Perabarabè. Bubù, babà, bibì, perabarabè. Bubù mi parla già col tu, tu, tu, tu, tu. Babà mi mesce il ratafia. Bibì mi pesta sempre le pie. Signori, abbiamo capito che la mafia a Roma non esiste. Oh, lo so. Una volta c'era la banda della Magliana che aveva il controllo del territorio, ma quella non era una vera e propria mafia. Non avevano gerarchie, reti di affiliazione, non gli hanno neanche riconosciuto l'articolo 416 bis. La mafia a Roma non c'era e non c'è. Sigla. Allora, aspetta, fatemi infilare passamontagna, che sennò mi riconoscono. Stavo in radio. Vabbè, allora non me lo metto, tanto non si vede. Allora, eccoci qua. Dunque, aspettate un attimo, che qua con tutti sti riti non ci si capisce niente. Mando sta. Eccolo qua. Cominciamo. Buon vespro, saggi compagni. Oh, Namo, dovete da rispondere. Buon vespro, sveglia. Ah, giusto, ma radio non ve sei. Vabbè, fate una cosa, rispondete da soli, eh? Allora, io dico buon vespro e voi dite buon vespro. Proviamo, anche da soli in macchina. Allora, buon vespro, saggi compagni. Buon vespro. Siete accomodi? Siamo accomodi. Vabbè, mi sto a fare la voce da solo. Non ci stanno gli spettatori in radio, che devo fare? Allora, aspettate un attimo, che qua con tutti sti riti non ci si capisce niente. Ma chi è qua? Il quartino, il terzino. Ma che gradi c'hanno questi da 'ndrangheta? Ma che è una squadra... Gaspari, Melchiorre e Bardassarre. Oh, ma che è davvero questi da 'ndrangheta giurano sui re magi? Te credo che gli tengono segreti sti riti di affiliazione, se no sei piede per... Vabbè, fammi sta zitto che so colleghi. Allora, aspettate un attimo, allora, San Michele, San Crispino, mando sta qua. Oh, ecco qua, oh, scusate, ma queste associazioni segrete c'hanno troppe formule. Senti un po', ma te sei fatto spiega bene da questi da 'ndrangheta? Sì, capo. Sicuro che è proprio così? Sì, capo. Hai preso tutto occorrente? Sì, capo. Ho preso spillone per puncicare il dito, icona sacra e accendino per abbruciarla, capo. Che poi adesso abbiamo anche gli accendini nostri, capo. L'accendino del dandy, l'accendino del cervellone. Cretino, voglio vedere se appena volta hai fatto tutte le cose fatte bene. Allora, l'affiliazione funziona così: venite qua, ve punci cordito, ve fate scappare un po' di sangue, fate cascar sangue sopra l'icona sacra, poi gli damo fuoco con l'accendino all'icona sacra, mentre l'icona brucia dite la formuletta e se ne andiamo a casa. E no, spillone sacrificale è lo stesso per tutti. E vabbè, lo disinfetteremo con l'accendino, che dovemmo fare? No, il buco lo famo piccolo. Sì, ci avevamo pure i cerotti, voi avete studiato la formuletta. Vabbè, chi non ha studiato la formuletta sta scritta qua, può legge, forza, andiamo, cominciamo, abbiamo tutto lo... Ma che santino hai preso? Che santino hai preso? Se serviva il santino di San Michele Arcangelo, tu che santino hai preso? La figurina di Totti, capo. Ma noi dovemmo giurare sull'onorata società, ma tu hai capito su quale onorata società dovemmo... Sulla S Roma, capo. Basta, andatevene via, che non ci voglio più combattere con questo solo tempo sprecato. Io volevo rifondare la banda della Magliana. Volevo rifondare la banda della Magliana. Non poteva essere che qua dopo chi tradiva quello, chi denunciava quell'altro. Volevo fare cose fatte bene, fare cose fatte bene come mi piaceva l'andrangheta. Basta, che ho un po' sprecata, andatene meglio tutti, e chi si è visto. C'è un problema, capo, però tutti questi soldi che noi volevamo fare, capo, questi soldi come famo poi a riciclarli? Noi non siamo capaci, capo, ci vorrebbe uno che ci capisce, uno che i fa ginare, capo, ci vorrebbe uno bravo. E c'hai ragione, dovremmo tanto ritrovare uno bravo come Enrico Nicoletti. Nicoletti, affonto da tramite tra vari gruppi criminali e pubblici ufficiali corrotti, curava gli interessi e del riciclaggio di denaro. Così, in una dozzina di anni, quelli della banda della Magliana passano dagli scippi e al contrabbando ai sequestri. E ben presto arrivano alle speculazioni edilizie e alle holding finanziarie. Spesso agivano per conto di Cosa Nostra. Hanno contatti anche con la Camorra, l'Andrangheta, sono i soldatini della mafia su Roma e non solo. Il problema è che mentre alcuni sperperano, altri accumulano, e le invidie, quelli della Magliana, le risolvono con modi poco gentili. Alla banda però non è stato riconosciuto l'articolo 416 bis di associazione mafiosa. Incredibile, eh? Ma la storia ha dimostrato che quelli della Magliana potevano spesso cambiare l'esito dei processi. Lo facevano con i soldi, tantissimi soldi. E con gli agganci giusti, agganci di gente che doveva servire allo Stato e invece lavorava per affossare la libertà. La banda della Magliana si ramifica, stringe contatti con i NAR, nuclei armati rivoluzionari, ma anche con la destra più altolocata. il criminologo Aldo Semerari. Uno dei più ascoltati periti del Tribunale di Roma. Si definisce nazifascista, forse per questo gli affidano la perizia sull'omicidio Pasolini, per essere sicuri che sarà imparziale. Semerari, iscritto alla P2 di Licio Gelli, ha contatti con i servizi segreti ed ha una chiara strategia eversiva: collegare gli estremisti di destra alla malavita comune. Secondo Maurizio Abatino, il pentito della banda della Magliana, Semerari organizza un incontro con quelli della banda nella villa del professor De Felice a Poggio Catino, in provincia di Rieti, nel 1978. Allora, potreste fare qualche omicidio per noi? Ardo, ya? Yeah. Ardo, noi da banda da Magliana, di politica non ci capiamo niente. E cosa capire allora? Che capimo? Che capimo? Capimo i sordi, le armi, e poi vorremmo tanto capire modo per scappare di galera, ma per quello ci vorrebbero i carri armati. Yeah, ma io posso aiutare voi, io posso fare piccola perizia, dire che ne so che voi siete fuori di capoccia, così già invece di galera vi portano in manicomio. Gagliardo. Gagliardo, così capa dente da matto potremmo far come ci pare. Oppure potrei fare altra perizia, dire che ne so che voi siete paralizzati su sedia a rotelle, così non vi abbandonano più e potete scappare su vostre gambe. Ardo, fanno bene le barzellette sui carabinieri, ma una fregnaccia del genere chi ci crederebbe? Maurizio Abatino, ufficialmente paralizzato su una sedia a rotelle, riesce a fuggire dalla clinica dove è agli arresti calandosi dalla finestra. Si usavano a vicenda. Quelli della Magliana avevano armi e perizie. Due anni dopo però, Semerari va in carcere e dà segni di cedimento. Minaccia di rivelare la fitta rete di corruzione intessuta in quegli anni con i servizi segreti e negli ambienti istituzionali. Nel 1981 così viene scarcerato. Nel 1982 però Semerari viene ritrovato nella sua auto decapitato a Ottaviano, vicino Napoli. Aveva fatto una perizia di troppo al camorrista sbagliato. Anche la banda della Magliana pian piano scompare. Troppi arresti, troppi omicidi, omicidi tra di loro. Oggi a Roma non c'è più la banda della Magliana, oggi a Roma ci sono tutte le mafie. Per agire e per riciclare denaro, le mafie hanno soprattutto bisogno di silenzio e mamma Roma è così grande che c'è spazio per tutti. Basta dividersi i quartieri e i settori e soprattutto non far parlare di sé. Gli omicidi fanno troppo rumore. Ci sono altri modi più discreti. Oh, il messaggio arriva uguale a chi lo devi mandare. Investigatori e giornalisti li chiamano reati spia. Sono gli incendi e le gambizzazioni che bisogna andare a cercare e nel Lazio sono decine e decine all'anno. Nel Lazio oggi ci sono 61 cosche insediate. Fino a poco tempo fa era la seconda regione in Italia per reati legati alle ecomafie e per reati di usura, la quarta regione per i beni confiscati e per i reati di estorsione. E le mafie arrivano se ci sono due condizioni particolari: se ci sono i soldi che girano e se c'è un terreno pronto ad accoglierle. E vanno sempre più su verso nord. Perché, come dice Catozzella nel suo libro, se tutte le strade portano a Roma, tutte le indagini portano da un'altra parte. Le indagini portano tutte a Milano. Milano, dove è il centro, il cuore gonfio di sangue e liquidità della borsa, delle banche. E poi a Milano ci sono le periferie, giganteschi quartieri popolari che assomigliano più a Scampia che a Piazza Affari. Catozzella è l'altro giornalista di cui vogliamo raccontare la storia. Quella contro le mafie è una guerra che dura da molti anni. Bisogna stare attenti per rimanere padroni di noi stessi. Bisogna stare attenti per scegliere da che parte stare oltre la linea. C'è un momento in cui cambia tutto. C'è un momento in cui i lineamenti che portiamo si risvegliano e gli occhi divampano come fiamme. E allora non si può più reprimere la rabbia e la sofferenza che brucia dentro. Ricordare per raccontare. Diventare giornalisti per cercare di fare della verità. il proprio mestiere. Questa è la storia di due giornalisti. Io sono Giovanni. Mio padre è morto Locri, sulla statale 106, ucciso a colpi di Lupara. E io sono Giuseppe. Mio padre è morto a Pavia, in un ospedale controllato dall''Ndrangheta. Nelle nostre vene scorre sangue del sud, nel nostro accento di periferia si sente che siamo figli del sud, ma nati al nord. Siamo uguali, visti da fuori, stesso modo di vestire, stessi discorsi, battute, gesti, eppure, loro appartengono ad una famiglia d'Ndrangheta, e io no. Loro sono ricchissimi, e io no. A loro sono state intestate società milionarie, e io a malapena riesco a campare. Ma io sono figlio di un padre, di una madre che hanno scelto la fabbrica. Io sono figlio di un padre che è morto in un ospedale di Pavia controllato dall''Ndrangheta. È così che dopo la morte di mio padre ho preso a studiare come un matto tutto ciò che riguardava la mafia più potente del mondo. Chi sta La maschera di Arlecchino, Pulcinella, Pantalone, la maschera del mafioso, del camorrista, dell''ndranghetista, Coppola e Lupara. Sotto la maschera di rozzi contadini ignoranti, però, le mafie hanno un altro volto. Poco tempo fa, davanti al tribunale di Milano, dei parenti di un 'ndranghetista che sta per essere processato, fuori dal tribunale, rilasciano interviste. E parlano male, davanti ai giornalisti, strafalcioni in dialetto, una calata marcata. Hanno messo la maschera. Recitano la loro parte di ignoranti, di poveri contadini emigrati dal sud. Poi i giornalisti se ne vanno, i parenti dell''ndranghetista si allontanano, ma Catozzella li segue di nascosto. Catozzella neanche sembra un giornalista, è un ragazzo giovane. E quando i parenti dell''ndranghetista pensano di non essere più ascoltati, si mettono a ridere, pacche sulle spalle al parente che sarà fatto intervistare. Sei un grande, ne sbagliavi anche i congiuntivi, ma come fai? Sotto la maschera le mafie oggi usano Skype e il Bluetooth, così non possono essere intercettati. Investono in borsa, fanno studiare i figli, investono sui giovani, loro. Ma c'è una cosa importante da sapere, che se entri nell''Ndrangheta morto di fame, rimani morto di fame. Anche lì puoi scalare il vertice solo fino a un certo punto, perché poi vanno avanti solo i figli dei boss. Per anni invece si è pensato che soprattutto l''Ndrangheta fosse una piccola cosa. Si pensava che erano tante piccole famiglie senza un vertice al loro capo. Non è così. L''Ndrangheta oggi in Lombardia ha così tanto potere che un giorno Nuzzo Novella pensa di potersi distaccare dalla Calabria e controllare da solo le 'ndrine del nord, le locali del nord. È preoccupato però, non viene invitato al matrimonio della figlia di un boss della costa ionica. Questo fra boss è un segnale chiaro. Che cazzo stanno preparando? Si chiede in una intercettazione. E fa bene a preoccuparsi, perché in un'altra intercettazione i due 'ndranghetisti parlano di lui e dicono: quello è venuto qua e ha detto a Dio che non è Dio, ma lui è finito ormai. La provincia lo ha licenziato. Licenziato. Finito. Boom. Proprio in quei giorni Salvatore Borsellino va in provincia di Milano, va ad inaugurare un circolo, perché, come la piazza che gli sta davanti, quel posto verrà intitolato a Falcone e a suo fratello Paolo. Benvenuti a Paderno Dugnano. Questo posto non è elegante. È qui che nel 2009, sotto la foto dei due magistrati che ridono, tavoli a ferro di cavallo. Si riuniscono 30 capi delle locali del nord. Hanno un compito ben preciso. Devono eleggere il nuovo referente dell''ndrangheta per il nord Italia dopo che Nuzzo è stato licenziato. Il direttore di quel posto è di là in cucina, prepara la pasta. Gli hanno affittato la sala per una cena. È là, cucina, e non sospetta nulla. La polizia invece sospetta qualcosina. Hanno messo delle telecamere, dei microfoni nascosti. Il video della polizia mostra per la prima volta anche alla polizia che l''ndrangheta al nord non solo esiste, ma ha un vertice, una struttura ben preciso. Viene eletto Mastro Generale Pasquale Zappia. Nuzzo, il suo predecessore, è stato licenziato con dei proiettili scamiciati, di quelli che ti esplodono dentro. 5 colpi al volto, per sfigurarlo. Io, dice Zappia, se questa responsabilità me l'avete data, mi tocca prendermela. Tutti gli altri allora alzano i bicchieri e gli dicono: auguri. Cercare la mafia a Milano per un giornalista non è difficile. Il barista sta male. È un anno che faccio colazione nel bar di Rino e sono 6 mesi che Rino si fa i tagli sulle braccia. Più o meno da quando è arrivata la macchinetta del videopoker, quando pensa che nessuno lo veda. Mentre esce il caffè, passa l'avambraccio sotto il bordo metallico della macchinetta che egli ha girato verso l'esterno con una pinza. Una volta mi stava versando il latte quando una goccia di sangue gli è spuntata da sotto il polsino ed è caduta giù. Non ce la faccio più, mi sono entrati dentro. Non è che vogliono i soldi, con quello che guadagno ci mangio malapena e loro lo sanno. Ma devi comprare tutto da loro. Il latte lo devi comprare da loro. Il caffè lo devi comprare da loro. E anche i croissant, gli amari, le patatine, quella. E quella macchinetta del videopoker. Io qua dentro il videopoker non lo voglio. Altrimenti il bar mi si riempie di gentaglia. E adesso gli occhi di Giuseppe sono bassi. Fissano quella macchia di sangue. Troppo poco quel sangue, quella goccia, per fare notizia. Giuseppe, che un giornalista, sa bene che al mondo del bar di Rino non gliene importa niente. Eppure lui, quella goccia di sangue sembra colpirlo proprio qui, nello stomaco e negli occhi. In fondo, una goccia di sangue, che cosa vuoi che sia? La mafia è nel caffè del mattino. Pronto? Guido. Guido, dottore, io sono peggio di te oggi. E che è successo a te? Niente, c'è un articolo sulla Gazzetta di Modena, no? Sempre per quanto riguarda giochi e non giochi, di napoletane, siciliane, e mezza pagina parla di me questo giornalista, sono già la seconda volta in 2 anni. Parla di te, a che pro? Un esponente dell''ndrangheta nel settore dei giochi, e così di barzelletti, solo di cose. Vabbè, mi dici come si chiama il giornale, il nominativo? E lo facciamo smettere immediatamente. In 2 anni l'ha fatto 2 volte, hai capito? Benissimo. Questa detta volta non è bella, perché non sono cose belle, uno che si rompe il culo dalla mattina alla sera. No, ma ci penso io. Ce l'hai la copia? Sì. Come si chiama il giornale? È la Gazzetta di Modena. Ci penso io. No, c'è un giornalista che rompe le balle a una persona che mi sta aiutando e ti dirò chi è, questo giornalista, se ci arriviamo o la smetto gli sparo in bocca, finita lì. Vedi che glielo faccio andare in bocca. Ti spiego, sappi una cosa, che ci sono 2 poteri oggi in Italia, la magistratura e i giornali. Lo so, il giornale è peggio della magistratura. Bravo. Guardate che non è una cosa da poco rinunciare o rifiutare un caffè in certi territori. E poi non parlo solamente di Reggio Calabria o Casal di Principe, parlo anche dell'Interland milanese, di Ventimiglia, oppure di Brescello, in Emilia. Rifiutare un caffè molto spesso significa prendere posizione. Dopo questa intercettazione che avete sentito, la vita di Giovanni Tizzan cambia. Oggi Giovanni è sotto scorta. Sotto scorta per aver scritto, parlato, di una cosa all'apparenza banale, futile, come videopoker. Quelli che ti installano il videopoker guadagnano il 6% sull'incasso. 60 euro al giorno. Per 1000 macchinette fa 1.800.000 euro al mese, 20 milioni l'anno. Solo con i videopoker. Brescello, piccolo comune in provincia di Reggio Emilia. Oh, famoso solo per una cosa Brescello, eh? Per Peppone e Don Camillo. Tante cose sono intitolate a loro. Nella piazza principale ci sono le due statue, c'è il museo, c'è il bar Don Camillo, che un giorno non apre. Sulla serranda c'è un cartello, chiuso per minacce mafiose ed estorsioni. Oh, tranquilli, va tutto bene, non sta succedendo niente. Infatti, per prima cosa scompare il cartello, poi si dice in paese: il proprietario del bar, Don Camillo, ha dovuto subire anche le ire del sindaco, Peppone, secondo il quale parlare di mafia avrebbe storpiato irrimediabilmente l'immagine del paese. Ma che volto ha la mafia al nord? Deve avere un aspetto così preoccupante che nel 2006 viene secretata per la prima volta una relazione antimafia in cui si parla proprio delle infiltrazioni mafiose al nord e del loro legame con la politica. Anche se alcuni giornali non ne parlano o non ne vogliono parlare, che ne so, il giornale 18 dicembre del 2010, una firma contro Saviano che dà del mafioso al nord. Mafioso al nord. Poi però nel 2012 viene arrestato Domenico Zambetti, assessore della regione di Lombardia nella giunta di Formigoni, con l'accusa di aver pagato 200.000 euro in cambio di 4.000 voti che sarebbero stati portati da ndranghetisti. E così la giunta della regione più ricca d'Italia arriva a sciogliersi per il sospetto di aver vinto grazie ai voti portati dall'ndrangheta e il sospetto di aver governato almeno in parte sotto il ricatto delle mafie. Poi nel 2013 Marcello Dell'Utri viene condannato in secondo grado per concorso esterno in associazione mafiosa. Qualcosa deve cambiare. Solo che lo ha capito anche la mafia. Infatti, Piero Grasso, quando era procuratore nazionale antimafia, dice: oggi le mafie non cercano più politici da corrompere. Oggi si candidano direttamente loro. La ricerca della verità sulla morte di mio padre mi porta qui, all'Ortomercato di Milano. È qui che incontro Micco Spicola, sindacalista. Micco è la quinta minaccia di morte. A Micco hanno incendiato la casa. Mi mostra il dente che gli hanno rotto, che per metà non c'è. È nella bocca che risiede il male, nella bocca che parla troppo, vedi? Puzzena. Era bella Puzzena, tutta bionda, con al posto degli occhi due bottoni di cobalto blu. I camion dentro gli hangar non ci devono entrare, è fuori che devono scaricare. È la normativa antimafia a dirlo. Lo sai chi sono i Bernard? I Bernard sono una famiglia dell'est. Arrivano qui con la loro bambina, Buzzena, che ha 3 anni. E nell'ortomercato lavorano di notte, caricano e scaricano le casse. Io ci ho provato a portare in giro Buzzena con me, ma i genitori non hanno voluto, no. Si fidavano più degli uomini del clan che di me. E così Bernard, il padre, ha chiesto il permesso ai clan di stare qualche giorno in un angolo dentro il grande hangar della frutta fresca. Si sono fatti un bel cantuccio, hanno tirato un cavo, appeso una tenda, ma pochi giorni diventano settimane, mesi, a dormire per terra dentro l'ortomercato. Guarda l'ortomercato di Milano, uno dei più grandi mercati d'Europa, una processione finita di tir, camion, carne, pesce, frutta, verdura, caporali clandestini e cocaina nascosta nei doppi fondi dei camion. E Buzzena, tutta bionda, con al posto degli occhi due bottoni di cobalto blu, una notte perde la palla con cui gioca tutto il giorno e al buio va in giro a cercarla. Un camion in retromarcia, entrando dentro l'hangar l'ha schiacciata. Un camion in retromarcia, entrando dentro l'hangar l'ha schiacciata senza nemmeno accorgersene. Tutto ciò avviene a Milano, dove sono nato, cresciuto, dove mi sono innamorato e dove ho giocato a pallone. Tutto ciò avviene a pochi passi da casa mia. Nell'ordinanza crimine leggo gli indirizzi e i numeri civici degli affiliati, che sono ovunque. Dietro il GS dove vado a fare la spesa, nel palazzo dove abita un mio compagno delle elementari. E a San Fruttuoso, dove una testimone di giustizia, Lea Garofalo, è stata bruciata in un fusto. E adesso Caturzella esce dalla porta numero 3, quella che Micco gli ha detto essere sempre aperta. I suoi occhi non riconoscono più le strade in cui abita. È come se vedesse quelle strade per la prima volta. È come se al posto degli occhi avesse due bottoni di cobalto blu. Il piave mormorava calmo e fragile. Capo, dove sei, capo? Sto qua. Dove sei, capo? Non ti vedo in mezzo a tutta questa nebbia. Ah, eccomi. Oh, capo, capo. Capo, che ce famo noi a Milano? A Milano famo i sorti. Oh, gagliardo. E come li famo? Allora, per prima cosa, famo il buco. Guarda il buco. Oh. Fatto il buco, o riempiamo di scorie chimiche e rifiuti tossici e poi ci costruiamo sopra i palazzi. Gagliardo. Capo, ma la gente che andrà a vivere là, gli verrà un tumore. E se curano in ospedale, no? Ma se poi viene pure a me un tumore? Te curi pure tu, ma da uno bravo. Ho capito, capo. Ma se poi anche negli ospedali c'è la mafia e mi curano male? E vai in una clinica privata, no? Cretino. Ho capito, capo, ma se dovemo spendere tutti sti sordi per guarire da una malattia che ci siamo procurati da soli? Sti sordi, capo, chi fa ma fa? Sommesse triste il mormorio delle onde, come un singhiozzo in quell'autunno. Nelle carte di un'inchiesta è descritto un meccanismo simile a questo, che avrebbe portato alla costruzione della discarica abusiva nei comuni di Desio, Seregno e Briosco, poco più a sud di Milano. Questa discarica è grande. Immaginate, 10 campi da calcio, uno attaccato all'altro, cancerogeni, in Brianza. In un caso addirittura gli uomini delle cosche vogliono strafare, presentano una denuncia di inquinamento contro ignoti e provano a speculare anche sulla bonifica del terreno. Oltre agli appalti, l'andrangheta ha anche il monopolio del mercato della cocaina. Non è il produttore e non è il dettagliante o lo spacciatore di quartiere da cui uno va a comprare il fumo. L'andrangheta tu non la vedi, ma sta prima. È nella distribuzione e controlla il mercato. Perché lo controlla l'andrangheta? Perché il mercato, soprattutto quello della droga, ha bisogno di silenzio e nell'andrangheta non ci sono quasi mai pentiti. Perché non ci sono? Perché l'affiliazione si passa di padre in figlio oppure attraverso il matrimonio, come una monarchia. Ed è difficile denunciare tuo padre, tuo marito, anche se qualcuno l'ha fatto, qualcuno come Lea Garofalo e sua figlia Denise. Si stima che l'andrangheta solo dal mercato della droga guadagni ogni anno 30 miliardi, 30 mila milioni di euro, che poi reimmette nell'economia legale, che è quella dove lavoriamo noi, lì dove ogni imprenditore cerca di fatturare il meno possibile per pagare meno tasse. Ecco, dove lavoriamo noi, l'andrangheta ha l'esigenza contraria. L'andrangheta ha così tanti soldi che la sua preoccupazione primaria non è tanto farne ancora, quanto nascondere e riciclare i soldi che già ha. Se al sud l'omertà c'è per paura, al nord c'è per interesse. C'è una legge che rende possibile sciogliere i comuni per infiltrazioni mafiose. Dal 1991 ad oggi sono quasi 200 i comuni colpiti, sono soprattutto al sud, ma non solo. Nel 2005 in provincia di Roma viene sciolto il comune di Nettuno per presunte infiltrazioni mafiose. Nel 1995 viene sciolto il comune di Bardonecchia e, sempre in provincia di Torino, nel 2012 vengono sciolti Leini e Rivarolo. Come Ventimiglia, in provincia di Imperia, in quasi tutti ad infiltrarsi è stata l'andrangheta. Alcune giunte comunali, invece, hanno una storia particolare. A Fondi, in provincia di Latina, lì i soldi girano perché c'è il MOF, uno dei mercati ortofrutticoli, anche questo uno dei più grandi d'Europa. Nel 2009 finiscono in carcere decine di persone. La procura segnalò imbarazzanti collegamenti tra la giunta comunale e la lunga serie di appalti vinti da aziende che sarebbero state sotto il controllo dei clan. Ma il comune di Fondi, come quello di Desio in Brianza, non viene sciolto per infiltrazioni mafiose. Anche perché si sono dimessi prima. E così si sono potuti ricandidare alle elezioni successive. La prima verità che si impara in guerra è che nella vita la cosa fondamentale sono un paio di scarpe. Un paio di scarpe buone. Così diceva mio padre. Me lo ricordo quando tornava dalla fabbrica gli ultimi giorni, dopo 35 anni. Non alzava più le braccia, non sollevava le ciabatte. E io gli aprivo la bottiglia di vino, quella del discount. L'ha bevuta una vita a santificare la cena. Artrite reumatoide. In ospedale i medici gli hanno fatto ogni tipo di analisi. E nell'ultima una piccola telecamera gli ha sfondato le pareti del duodeno. I medici l'hanno capito 72 ore dopo. Lo stavano facendo morire così, corroso, dai suoi stessi fluidi interni. Giudicherò sempre l'andrangheta responsabile della morte di mio padre. La prima verità che si impara in guerra è che nella vita la cosa fondamentale sono un paio di scarpe. Un paio di scarpe buone. Mio padre le scarpe buone se le dimenticate nella sala operatoria. E dopo una settimana dal funerale, l'ultima beffa è il conto dell'ospedale. 42.500 euro. Tutti i giorni vado al cimitero, porto l'acqua ai fiori di mio padre. Stanno facendo dei lavori. Voglio capire, voglio vedere. Mi arrampico sulla fiancata di un tir, sposto un telo e un odore nauseabondo, oleoso, acido. A terra c'è un altro telo, sollevo pure quello. C'è un buco profondo, una ventina di metri. Basta un solo passo. Un solo passo e mai più pensieri, paure, preoccupazioni. Torno da te, papà! Hai visto? Sono diventato un imprenditore. Gestisco un'impresa edile, facciamo lavori come questo, facciamo i buchi. Portiamo la terra da un posto all'altro. Ma che cazzo fate? Questo è un cimitero. Ci mettete la merda intorno ai morti. Ma quale merda? Tranquillo. Dove stanno le bare mettiamo la mista buona. E sotto? Sotto cosa ci ficcate? Scorie chimiche? Rifiuti tossici? Ma te che cazzo te ne frega? Tanto sono tutti morti. Stai calmo. Ricordatelo questo. A Milano ogni buco è oro. Ogni volta che si scava si scopre un tesoro. Vincenzo Nucera, il mio vecchio compagno di banco. Lui parlava però, io pensavo, mio padre, alle sue braccia che mi sollevavano in aria quando ero bambino. Secondo te perché la mafia non è ancora morta? Te lo dico io perché. Perché la mafia è ovunque, non c'è il senso di giustizia dentro alle persone quando il senso di se stessi supera quello dell'altro. Ricordati che la mafia può esistere solo dove la gente vuole che esista. Anzi, è sempre una scelta. Quando vengono da te e ti dicono che loro vogliono entrare in partnership con la tua attività, che loro ti assicurano i lavori, che c'hanno gli agganci giusti con la politica e tu farai paccate di soldi solamente mettendoci l'azienda, che magari era quella di famiglia, di tuo nonno, di tuo padre. Quando qualcuno viene da te e ti dice ste cose, tu che dici? E a quegli occhi dolci, ai suoi pezzi sottoterra che si mischiano e di quame. Alle feci del denaro nero del nostro paese. E tu farai paccate di soldi solamente mettendoci l'azienda, che magari era quella di tuo padre, di tuo nonno. Quando qualcuno viene da te e ti dice che tu con l'andrangheta farai paccate di soldi, tu che dici? Lineamenti è una storia di padri e di figli. I lineamenti, quei tratti comuni che si passano di generazione in generazione. Mio papà si chiamava Giulio. A 18 anni si arruolò nell'esercito come alpino. Davanti a lui si prospettava una brillante carriera militare, ma decise di abbandonare. Divenne carpentiere Da piccola mi ricordo come le sue grandi mani, che erano ruvide, mi sollevavano in aria. Le sue mani erano consumate da un lavoro duro ma pulito. Papà mi ha insegnato il coraggio di lottare, di inseguire i miei sogni nonostante tutto. E allora mi guardo allo specchio, riconosco i suoi lineamenti, è in quel momento che capisco chi sono e da dove vengo. La legge Rognoni-Latorre permette di confiscare i beni alle mafie. Ma non bastava confiscarglieli. Allora Libera ha raccolto 1 milione di firme e è stata votata all'unanimità la legge 109 del 96. Questa legge permette un riutilizzo sociale dei beni confiscati. E così le mafie in alcune terre hanno smesso di apparire e sembrare l'unica opportunità. A Torino c'era il Bar Italia. Un giorno vengono arrestati 153 presunti 'ndranghetisti, fra cui il marito della titolare del bar. Da quanto emerge dalle carte del processo, il bar era un punto centrale per i rapporti tra la politica e la criminalità organizzata. Il bar era il posto dove la mafia offriva il caffè ai politici. Oggi il Bar Italia è riaperto, ma non si chiama più Bar Italia. Oggi si chiama Bar Italia Libera.